Salve a tutti gli ascoltatori di Radio Big World. Siamo a parlare sempre degli argomenti prefissati, cioè oggi parliamo della conoscenza e della virtù. In maniera approfondita parleremo della virtù perché della conoscenza ne avevamo parlato la volta precedente in maniera abbastanza approfondita. Comunque si può mettere come titolo al nostro quarto d'ora da passare assieme che sviluppare la virtù e la conoscenza contribuiscono a fare dell'uomo un essere adeguato alla sua natura. Se vi ricordate, in precedenza avevamo richiamato Dante, quello che Dante ha messo in bocca a Ulisse. Ulisse veniva dal continuare i suoi viaggi esplorativi del mondo e i suoi compagni erano un po' stanchi, al che lui incitò i suoi compagni dicendo loro: considerate la vostra semenza, fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza. Come detto, abbiamo già parlato della conoscenza, che per noi significava percepirsi cittadini dell'universo, e oggi parliamo della virtute ragionando della solidarietà. La solidarietà è l'atteggiamento e il pensiero che si contrappone all'individualismo. Nell'accezione più ampia, la parola solidarietà significa un impegno a favore degli altri quando gli altri hanno bisogno di noi. Se ogni essere umano allineasse il proprio comportamento di vita alla solidarietà, i primi ad esserne beneficiati saremmo noi stessi, ricevendo supporto dagli altri quando ne avessimo bisogno. Così non avviene. Vediamo con chiarezza che questo atteggiamento della solidarietà non è applicato. Non è applicato nel mondo della politica, dove il partito passa soprattutto schiacciando gli interessi di chi ha orizzonti diversi. Non è applicato nel mondo dell'economia, dove gli interessi di pochi soffocano gli interessi di molti. Ricordatevi che la ricchezza degli italiani è in mano al 20% dei cittadini. Non è applicato nel sociale, dove i costi eccessivi per il mantenimento o il recupero della salute o dell'istruzione lasciano fuori dai benefici sociali il 40% dei cittadini italiani. Eppure l'articolo 2 della Costituzione italiana recita: la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità, e richiede l'impegno dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, articolo 2 della Costituzione italiana. Se non bastasse questo esplicito richiamo alla solidarietà che viene dalla Costituzione e che significa dare una mano a chi ne ha bisogno nel momento in cui ne ha bisogno, si può rileggere anche l'articolo 53 della Costituzione, che dice che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva e altre cose omississe. Tradotto in termini pratici, l'articolo 53 significa che se un cittadino è malato e non ha soldi per curarsi, devono gli altri cittadini pagare per lui. Se un giovane non ha soldi per studiare e vuole studiare, devono gli altri cittadini pagare per lui. Se una famiglia non ha casa e dorme all'addiaccio, devono gli altri cittadini pagare per lei, perché il diritto alla casa, allo studio, alla salute sono coperti dalla spesa pubblica, che invece distribuisce senza solidarietà, premiando i più ricchi e punendo i più poveri. Il nostro valore, la solidarietà, benché ampiamente richiamato nella nostra Costituzione all'articolo 253, non è applicato come dovrebbe. Quindi possiamo affermare che la mancanza della solidarietà nella società italiana è un vulnus inflitto alla Costituzione italiana. Allora, cosa possiamo fare? Tutti sappiamo dello schiaffo ricevuto. C'è chi porge l'altra guancia, c'è chi si scansa per non riceverne un altro, c'è chi lo restituisce, c'è chi lo utilizza per dichiarare una guerra. Ricordiamo, fatti non foste a vivere come bruti. Quindi significa che ognuno di noi sa qual è per lui la virtute. Ognuno di noi sa se applicare o no la Costituzione italiana. Ognuno di noi sicuramente però vorrà essere consapevole nel gestire la propria vita, che obbligatoriamente la propria vita avviene assieme agli altri esseri umani. Vi saluto, arrivederci al prossimo incontro. Se vorrete mettere in discussione o puntualizzare le cose dette, basta contattare Radio Big World e possiamo aprire un confronto anche diretto, se volete. Vi saluto da Radio Big World con tutti gli amici della radio e con voi che state ascoltando. Buona giornata.